Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, di Federico Pedrocchi e Simona Regina. Questo è Mebius, Simona, dobbiamo raccontare storie di scienza. A tutti e a tutte le persone che ci stanno seguendo come ogni sabato sera su Radio 24. E allora incominceremo con una storia davvero strana, tratta da un libro il cui titolo è... Cecità clandestina. Poi proseguiremo con un qualcosa di molto particolare che riguarda come un'azienda può produrre, agevolare l'innovazione, ma pensando ad aspetti umani, psicologici. E chiudiamo andando in giro per il mondo a conoscere alcuni progetti di Citizen Science. Via! Dicevamo nei titoli, Simona, che storia strana e singolare, e la portatrice di questa storia è qui con noi, Paola Emilia Cicerone, nostra collega, giornalista di scienze mediche. Grazie, buonasera a tutti. Benvenuta Paola. Il titolo di questo suo libro è Cecità clandestina. Sfogliamolo metaforicamente insieme. Cecità clandestina, partiamo appunto dal titolo. Che cosa significa? Cecità clandestina significa sentirsi clandestini in un mondo drammatico che è quello di chi perde la vista. Perché io non ho perso la vista. Il blefarospasmo, che è il disturbo che mi ha colpito, è un disturbo neurologico, non riguarda gli occhi. Io sono partita dall'oculista, perché quando ti si chiudono gli occhi, quando gli pare a loro e non quando vuoi tu, vai dall'oculista perché pensi che siano gli occhi. In realtà l'oculista mi ha fatto fare dei controlli e poi mi ha mandato dal neurologo, e io nel frattempo, che appunto sono abituata a scrivere e ricercare di medicina, avevo fatto un'abbondante ricerca per conto mio, e quando mi hanno detto cecità funzionale, perché è uno dei nomi sotto cui passa questo disturbo, sapevo già cos'era, e meno male, perché sennò mi sarebbe preso un infarto. Ecco, però prima di arrivare alla diagnosi, ad un certo punto cosa è successo? Ad un certo punto ti sei trovata immersa nel buio? È successo nel buio intermittente, perché tutti noi sbattiamo gli occhi. Io adesso ti sto guardando e tu ammicchi, anch'io probabilmente, però non lo facciamo deliberatamente, possiamo, però gli occhi si riaprono sempre. Col blefarospasmo, questo muscolo in qualche modo, ora dico si infiamma, non si infiamma, è comunque, probabilmente, perché non ci sono delle idee chiare, un'alterazione di neurotrasmettitori, per cui si chiudono e restano chiusi per un tempo X, si aprono magari brevissimamente, poi si richiudono, e quindi ti perdi la possibilità di vedere come vediamo noi normalmente. Ma dacci un tempo, per quanto per esempio? Oh, minuti. Minuti? Minuti, quindi. Minuti. Quindi non una roba. No, soprattutto minuti in successione, cioè minuti chiuso, 10 secondi aperto, minuti chiuso, 10 secondi aperto. A meno che, è una delle strategie che poi ho scoperto e diffusa, ma lo facevo io, non ti tenga gli occhi aperti con una mano. Due dita per tenerti gli occhi aperti, come quando ti trucchi per le signore, e li vedi, però se molli, l'occhio si richiude. Ecco, ti ricordi cosa stavi facendo, dov'eri, quando improvvisamente non riuscivi a riaprire le palpebre? Dunque, è graduale, e anche questo è una caratteristica di questo disturbo, comincia gradualmente. Mi ricordo, lo racconto un po' nel libro, ho cominciato ad avere dei problemi in una vacanza d'estate in Grecia, perché a me la luce ha sempre dato un po' fastidio, ma me ne dava davvero troppo. Poi ho cominciato a vedere che appunto queste pause si allungavano sempre di più, ho cominciato a vedere che creavano problemi, perché magari si chiudeva l'occhio quando camminavi per strada e inciampavi in un gradino, cose del genere. Poi da lì è stato un crescendo. Questo 3-4 anni fa, no? Questo nell'autunno 2011, fine estate, autunno 2011. E a un certo momento il neurologo ha incominciato a dirti come stavano. Dunque io dal neurologo in realtà sono andata una volta sola, anche perché è stato abbastanza complicato sia trovare qualcuno che si occupasse di distonie. Il blefarospasmo è una distonia, ci sono per esempio distonie cervicali che sono lo stesso tipo di cosa, cioè un blocco improvviso ma sul collo, per esempio un torcicollo a intermittenza. Trovato, ho dovuto fissare l'appuntamento, eccetera. Sono andata lì, mi sono sentita dire che era blefarospasmo essenziale, questo già lo sapevo, cioè non era legato a altre malattie, perché poteva essere un sintomo di una serie di malattie, che non c'era una terapia, che non si riuscì, no, scusate, non c'era una cura, siamo più precisi, che non c'era modo di dire quale fosse la causa, che presumibilmente non sarebbe passato e che appunto la terapia sintomatica che mi suggerivano, che è quella, il golden standard, quella generalmente suggerita in questi casi, sono iniezioni di botulino per bloccare il muscolo che fa i capricci. Nel libro poi in realtà racconti che il percorso terapeutico che hai intrapreso è un altro, però semmai lasciamo che i lettori e le lettrici lo scoprano appunto sfogliando le pagine del libro. Però il libro Cecità clandestina è anche un'occasione per riflettere proprio sulla comunicazione medico-paziente. Infatti, perché questo libro è stato scritto in due tempi. Il diario l'ho scritto immediatamente quando ho ripreso a vedere, non è un giallo, quindi possiamo dirlo, io più o meno ci vedo da mio, per come sono sempre stata, ma ci vedo, ho gli occhi un po' più vulnerabili e mi stanco più di prima, però insomma la situazione è, diciamo, nell'ambito della normalità. Quando ho visto che potevo scrivere un bel po' per mio piacere, non riservare le poche energie al lavoro, perché ho sempre lavorato anche durante i periodi di buio, ho scritto il diario, che è la prima parte del libro. Poi è venuta appunto l'idea di far collaborare le dottoresse che mi hanno seguita, per cui ci sono dei loro contributi, di spiegare un po' che cosa fosse questo blefarospasmo, che è abbastanza poco conosciuto, e poi io faccio la giornalista e in realtà questa non è una storia di mala medicina, di errori, non ci sono stati errori diagnostici con me, ci sono stati errori comunicativi. E siccome io ho una vita un po' strana dal punto di vista sanitario, e ripensandoci, parlando con l'editore che mi diceva ma allarghiamo il discorso e parliamo di comunicazione, perché questo libro esce in una collana dedicata alla medicina narrativa, mi sono venuti fuori buona parte, non tutti perché continuo a ricordarmene, di problemi comunicativi che io ho avuto con i medici o che ho sentito raccontare e di cui mi è capitato di occuparmi come giornalista, e quindi mi è venuto voglia di cercare di capire perché è così difficile, perché il medico, il neurologo che mi ha visitato, che non ha sbagliato nulla, mi ha detto non è una cosa grave, che dal suo punto di vista era giusto, perché un neurologo che è abituato a malattie neurodegenerative di fronte a un blefarospasmo essenziale dice non è una cosa grave. Con il limite però che insomma noi non siamo solo l'organo malato. Eh già, infatti il problema centrale è esattamente questo, guardare la persona, Paola, il paziente, l'aiutare le persone che hanno un sintomo, che hanno una malattia, perché poi vale per tutti. Certo. E che è poi il nodo di questo libro. Sì, sì. Vorrei però dire che non c'è una soluzione miracolistica, né io sono una miracolata. C'è un suggerimento a un modo di avvicinare le malattie che non sono proprio così chiare, che vale per i pazienti, vale per i medici e non vale naturalmente solo per chi soffre di blefarospasmo o di distonie, ma per chi soffre di quei milioni di malattie misteriose che ci sono in circolazione. Paola Emilia Cicerone, Cecità clandestina, edizioni allora esattamente Maria Margherita Bulgarini. Un'agile lettura che vi consigliamo, grazie Paola per essere stata con noi. Grazie a voi. Ciao, buon lavoro. E adesso, sulle strade succederà qualcosa, ce lo raccontano quelli del traffico. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi, ti conviene. Vi presenta... Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Oh, non possiamo farvelo sentire perché dura 33 minuti con tanto di video, però è una intera assemblea negli Stati Uniti a Boston che è stata indetta dall'Associazione Americana per lo Sviluppo delle Scienze, dedicata al signor Trump, che naturalmente nel mondo delle scienze sta creando grandissima inquietudine. Andate al blog e vedrete il video e con anche la trascrizione di quello che dicono in inglese. È veramente sorprendente, vedo che tu ridi, ma è vero, è assolutamente allucinante. E anche perché poi sul blog possono curiosare e trovare una bella intervista che abbiamo fatto un po' di tempo fa, sempre a proposito del rapporto tra Trump e la ricerca scientifica. Mentre invece adesso noi ascoltiamo Antonio Baldassar, CEO di SeaWeb, sì come mare, che è una grossa azienda che fa servizi cloud. Però quello che è interessante è come loro stanno agendo verso chi fa innovazione, andando a incontrare gli aspetti umani, psicologici, quelli non solamente tecnici. E infatti l'intervista inizia dicendo: ma ci sono quelli che fanno innovazione, inventano delle cose, ma non hanno nessuna intenzione di aprire, di fare un'azienda. E voi vi rivolgete a questi. Cosa fate? Ecco. E noi con questo intanto cerchiamo di conoscerli, perché non è semplice, anche se sembra paradossale, l'incontro domanda e offerta, perché i meccanismi di incontro sono molto arcaici. Noi parliamo di cloud, ma in realtà il meccanismo di incontro della domanda e offerta è ancora troppo arcaico, e quindi alla fine i consessi per fare questo sono dei consessi in cui le imprese come la nostra dicono quello che fanno, si evidenziano, e i talenti, diciamo così, in qualche maniera a loro volta in altri contesti si evidenziano. Quindi il primo problema grosso è incontrarsi. Quindi adesso state parlando a loro, per esempio. Adesso per esempio stiamo parlando a loro. Quindi qual è la nostra idea? La nostra idea è che noi possiamo dare un apporto a questi talenti, ove anche non volessero fare impresa, un apporto che va oltre la mera assunzione, ma è un apporto che si rivolge a soggetti che hanno delle idee concrete nella mente, che possono diventare dei servizi, che possono diventare delle cose che abbiano un senso per qualcun altro. Questa è l'idea. Noi pensiamo di dare, a noi cerchiamo questo tipo di risorse al fine di, da un lato, aiutarli a realizzarle, dove l'aiuto si può declinare in banale aiuto economico, si può declinare in aiuto tecnologico, si può declinare in aiuto di conoscenza, perché tipicamente un talento che è un bravo programmatore, che ha un'ottima idea di sviluppare un'app, per esempio oggi vanno di moda l'app che fa una cosa particolare, magari ha delle carenze dal punto di vista delle infrastrutture per farlo funzionare, o che ne so, del marketing o di altre cose. Noi ci proponiamo di colmare questo gap, accelerando la sua possibilità di realizzare questa idea, che potrebbe, noi ce lo auguriamo, sfociare per esempio in una business line per noi, con cui andare a fare per esempio degli accordi con lui che ha avuto questa idea di royalty o di revenue share, e che poi siano finalizzate a farlo entrare nella nostra organizzazione. Quindi un modo, se vogliamo, per alla fine aumentare la nostra forza lavoro più che nel numero, nella qualità. Poi paradossalmente, mettendo il soggetto che viene a lavorare in una forte posizione di forza, perché non è il generico dipendente che viene a lavorare, ma è quello che ha già dà un apporto importante in questo. Potrebbe essere anche qualcuno che ha fatto un'esperienza, non gli è andata bene, è fallito in Italia, invece che essere un valore aggiunto come in altri paesi, capire come sono andate male le cose è considerato un'ignominia. Voi cercate di raggiungere queste realtà e dire: ripensiamoci, ragioniamoci ancora. Assolutamente sì, questo è un caso su cui stiamo lavorando e vorremmo dargli forma proprio nei prossimi mesi, e riguarda il tema delle start-up sostanzialmente. Noi conosciamo abbastanza bene il tema delle start-up, il primo investimento l'abbiamo fatto nel 2005 nelle start-up, e il modello dello start-up prevede che le aziende crescano velocemente e abbiano successo a livello anche globale. Questo si porta con sé un dato statistico che dice: su ogni 1000 uno ce la fa, no? Sono poche le start-up che riescono a raggiungere questo modello di crescita veloce. Purtroppo tutte le altre finiscono o vengono tenute in vita artificialmente per troppo tempo, defaticando anche le persone, o banalmente falliscono o vengono liquidate. Il punto qual è? Che benché non abbiano raggiunto l'obiettivo che si erano posti, quello di fare la startup di successo, comunque avevano delle buone idee e avevano anche delle buone capacità di esecuzione, magari non nell'ottica della startup che domini il mondo, ma nell'ottica della capacità di creare del valore, sia per le competenze personali che c'erano dentro, sia per il valore proprio delle idee e delle esecuzioni. Noi vorremmo trovare il modo per dare valore a questo follow up, e quindi perché ce ne rendiamo, personalmente frequento molto l'ambito delle startup e vedo veramente delle persone di grande valore, con idee di grande valore fatte anche bene, che però non hanno avuto, diciamo così, fortuna, potremmo dire, non hanno seguito, e che poi generano anche un minimo di depressione, diciamo così, nelle persone che ci hanno lavorato. Noi crediamo che ci possa essere un modo per andare a ripescare, non è un termine bello, ma direi ad offrire un piano B. A partire da dei valori che magari fra le 4-5 cose che fanno sono particolarmente strategici se vengono spostati in un'altra direzione. E allora il terzo punto, che ovviamente si collega agli altri due, soprattutto a quest'ultimo, dove sta scritto che chi mette in piedi per la prima volta un'azienda e è giovanissimo, cerca di entrare nel mercato dove sta scritto che dovrebbe essere un grande imprenditore. Quindi voi chiamate anche delle realtà che si sentano fragili, magari prima di mettere in piedi la startup o appena appena, e dite: vi facciamo una consulenza per vedere quali possono essere gli elementi di successo. Sì, questo anche è un tema interessante, ripeto, frequentando un po' il mondo delle startup, in realtà ci sono tutta una serie di soggetti, proprio intesi come talenti fisici, che proprio non hanno voglia di fare la startup. Beh, non lo vogliono fare perché non si sentono imprenditori, cioè non è automatico sentirsi imprenditori, no? E questo è quello che vedevamo all'inizio, però c'è anche chi pensa di saperlo fare. C'è anche chi pensa di saperlo fare, chi ci prova e poi in qualche maniera o non ci prova nel verso giusto, diciamo così, o ha un insuccesso. Magari con la definizione inglese citizen science non vi è arrivato, però in generale invece vi è arrivato questo tema, e cioè i cittadini che partecipano al farsi, al prodursi di scienza. Simona ha intervistato Marco Zennaro, ingegnere informatico e ricercatore dell'ICTP, che è l'Istituto Internazionale di Fisica Teorica, e sentiamo che cosa gli ha chiesto. A proposito di citizen science, il coinvolgimento dei cittadini può essere una risorsa particolarmente importante, soprattutto nei paesi in via di sviluppo? Assolutamente sì, anche perché la citizen science si basa su strumenti a basso costo, che quindi sono disponibili anche nei paesi in via di sviluppo, soprattutto i cellulari o i sensori collegati ai cellulari. Bisogna tener conto che i dati che provengono dai paesi in via di sviluppo sono pochissimi. Quindi fornire dati da fonti, diciamo, ufficiali, professionali e calibrate, sia da sensori a basso costo e da cittadini, sicuramente arricchisce la quantità di dati disponibili. Quali progetti il Centro Internazionale di Fisica Teorica sta portando avanti in questo ambito? Noi abbiamo organizzato 25 attività di training nel campo di Internet of Things e dei sensori in paesi in via di sviluppo. Quindi quello che facciamo è insegnare a fisici e ingegneri dei paesi di sviluppo come costruire, come sviluppare queste reti di sensori. Abbiamo portato a termine, oltre all'attività di training, una serie di progetti che vanno dalla misura della qualità dell'aria in Benin ai sensori per le coltivazioni di tè in Ruanda, all'uso dei droni per misurare le radiazioni in Argentina, e sempre utilizzando strumenti a basso costo. In che cosa consiste il progetto in Benin per rendere più efficiente il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico? In quel caso abbiamo insegnato e installato una decina di sensori di qualità dell'aria che abbiamo distribuito nella città di Porto Novo, e tramite la rete GSM, quindi la rete cellulare, abbiamo mandato dati sulla qualità dell'aria a un server che era in Benin, e visualizzavamo la qualità dell'aria in tempo reale. Bisogna tener conto che nella città di Porto Novo non c'erano sensori di qualità dell'aria, quindi c'è stato estremo interesse, oltre che da parte dei ricercatori, da parte del governo stesso, per appunto avere dei dati sulla fruibilità degli spazi pubblici, ad esempio. E invece in Argentina avete utilizzato i droni per misurare le radiazioni, perché? Nella città di Bariloche, dove c'è una centrale nucleare a scopo di ricerca, e in quel caso l'interesse era quello di usare Bigaigi, quindi il sensore sviluppato dal gruppo giapponese di Safecast, su un drone per fare delle misure in caso di incidente. Quindi l'idea era di poter volare col drone attorno alla centrale nucleare e fare delle misure e in tempo reale avere una mappa di radiazioni. Safecast, lo ricordiamo, è il network di volontari sparsi in tutto il mondo, nato subito dopo il disastro di Fukushima per promuovere proprio la salvaguardia dell'ambiente attraverso la citizen science. Senta Zennaro, in questi progetti sono sempre direttamente coinvolti scienziati e scienziate locali? Assolutamente sì. Quando organizziamo un'attività di training, facciamo in modo che ci sia un interesse locale per usare i sensori in ambito locale, nel senso per risolvere un problema per il quale prima non c'erano dati, ad esempio la qualità dell'aria oppure la coltivazione del tè in Ruanda, che è stato un progetto che abbiamo portato a termine 2 anni fa. In quel caso non c'erano dati sulla qualità del tè, quindi con strumenti a bassissimo costo di un paio di dollari siamo riusciti in tempo reale a avere dati sulla qualità del tè. Parliamo di strumenti a bassissimo costo usati sia dagli scienziati sia dai cittadini? In quel caso era un mix di ricercatori, cittadini e aziende private. Quindi c'è stata una collaborazione tra vari enti per cercare di risolverlo con appunto strumenti a basso costo. Ma praticamente perché senza il coinvolgimento della popolazione sarebbe più difficile raccogliere dati? L'idea è quella di utilizzare sensori a basso costo per aumentare la quantità di dati che sono presenti e sono forniti da strumenti calibrati, da strumenti professionali. Un esempio è quello delle stazioni meteorologiche, ce ne sono pochissime, soprattutto in Africa, quindi c'è un assoluto bisogno di averne di più, e il nostro gruppo ha sviluppato le stazioni meteorologiche a basso costo assieme al Fab Lab, che ha stampato con le stampanti 3D queste stazioni meteorologiche, ma l'idea è di usarle assieme alle stazioni professionali calibrate. E infatti questo va nella direzione di quel che si chiama Internet of Things o Internet delle cose, per cui avremo milioni se non miliardi di sensori che manderanno tramite internet dati sull'ambiente circostante in tempo reale. Quindi l'idea è che questi sensori diventeranno sempre più piccoli e sempre meno costosi. Secondo lei il futuro della ricerca scientifica va proprio in questa direzione? Assolutamente sì, quindi nella direzione di avere big data, quindi una grande mole di dati. Il problema è che nei paesi di sviluppo ci sono gli strumenti software per analizzare i dati, ma non ci sono i dati stessi. Perché c'è questa carenza di dati? Le motivazioni sono diverse. Una è il fatto che ci sono delle condizioni particolari. Molti paesi non hanno ancora una buona copertura internet e questi sensori hanno bisogno di internet per mandare i dati. Il secondo è che molto spesso ci sono problemi di energia. E quindi di nuovo questi sensori a basso costo sono anche a basso consumo, quindi sono ideali per ad esempio l'Africa. Terzo è che ci sono pochi scienziati nei paesi di sviluppo, quindi una motivazione in più per coinvolgere i cittadini in queste misure scientifiche. Quindi utilizzare l'internet delle cose assieme ai big data sono due aspetti che vanno molto bene d'accordo. Per sabato 22 aprile 2017 questo è tutto. Però vi aspettiamo come sempre la prossima settimana, sabato sera alle 21.05 su Radio 24. Buona settimana a tutti e a tutte.